perché da me te fuggi e te fuggi cor mio, perché negarmi ai miei e ti muoio. T'accettai pure errante, ti soffendi disperso nel mio regno, ti tieni pure il cor l'anima in pegno, e tu infedele senza nuova vita, e la patria ti lasci senza vita. E no, volgiti in vino, volgiti indietro, volgi, gira per me la prora, e gira te son io m'raccorta sorella. Per te son giunta al fine, per te già varco il passo estremo e dura sorte ria, che parte l'alma della vita mia. Sospirite governo, venite a furor trecce mille a mille, venitemi come Niccar l'oltraggio. Ma qual mi sento al petto correr gelido i me sudor di morte? Ah, che mi sento il cor dal cor diviso. Oscura la vista, il piede, faccina.